Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio e prepariamoci ai supplementari. Da 6 anni a questa parte tutte le partite azzurre che contavano sono arrivate almeno al 120° minuto, almeno nel senso di corno senza rigori. Vale per Italia-Germania, semifinale del Mondiale 2006, vale per Italia-Francia, finale di quel Mondiale, vale per Italia-Spagna, quarto di finale agli Europei del 2008, vale per Italia-Inghilterra, quarto di finale agli Europei del 2012. E quindi estote parati, dicevano i latini, senza esagerare. È successo anche alla Spagna ieri sera, tanto che adesso ritrovo questa agenzia deliziosa, il telecronista spagnolo, quando ha visto Fabregas avvicinarsi verso il dischetto, se ne è uscito con questa frase. Il telecronista spagnolo, tra l'altro, in Spagna ieri sera hanno frantumato il record di audience, perché Spagna-Portogallo è stata vista da 18 milioni e passa di telespettatori con uno share dell'83%, che è una, insomma, che almeno l'ANSA lo presenta come il record d'ascolto spagnolo di tutti i tempi, superiore perfino alla finale mondiale. Dunque c'era Fabregas che passeggiava, si incamminava verso il dischetto del quinto rigore, e il telecronista spagnolo ha detto: io questa scena l'ho già vista, che non è male, perché in effetti Fabregas tirò anche il quinto rigore contro l'Italia nel 2008, segnò anche quello, tra l'altro più in sicurezza di ieri sera, perché ieri sera il suo tiro veramente ha scheggiato all'interno del palo, è rimbalzato quasi verso l'altro palo, sicché rigore ineccepibile, ma insomma è stato anche leggermente fortunato, così come era stato pazzo ancora più di Pirlo immediatamente prima di lui Sergio Ramos, terzinaccio mica tanto perché è un signor difensore, ma insomma a rischiare quel cucchiaio, che invece forse anche in questo caso ha cambiato, come già per Pirlo contro l'Inghilterra, ha cambiato anche psicologicamente l'andamento della lotteria dei rigori, tant'è vero che il tiro successivo è finito contro la traversa, esattamente come era accaduto contro l'Inghilterra. Brutta partita, credo che su questo si possa dire che non ci siano grandi dubbi, perché una Spagna davvero ai minimi termini rispetto a quella a cui eravamo abituati. Lorenzo Rizzoli, una mail di stamane, ha trovato una discreta battuta, secondo me, dice: dopo il Real dei Galacticos, questa Spagna potremmo chiamarla quella dei Narcoticos, perché sta sveglia di sera per lunghi tratti è stata dura. Poi è vero che le partite tattiche sono così, è vero che il Portogallo non poteva rischiare e doveva innanzitutto pensare, come già ha fatto l'Italia contro la Spagna, d'altra parte, a contenere il gioco avversario. Però è vero che mentre Spagna-Italia era stata una partita divertente, emozionante e con qualche occasione da gol, soprattutto da parte italiana per la verità, ieri sera tutto si è ridotto a una palla gol fallita da Ronaldo al 90°, e quello è stato il segnale che per il Portogallo non ce n'erano più, una grandissima parata del portiere portoghese al minuto 104 su Iniesta nell'unica azione vera di tutta la partita, cioè di 120 minuti per la Spagna. E poi vabbè, le emozioni dei calci di rigore, quelle sono abbastanza inevitabili. Ieri sera per le strade di Madrid cantavano Cristiano tiralo, tiralo Cristiano, ed è evidente lo sfottò, perché Cristiano Ronaldo non è arrivato a battere il calcio di rigore, era il quinto. E David Covezzi domanda: ma secondo lei Leo Bento, e cioè il CT portoghese, e Cristiano Ronaldo lo sapevano che a volte il quinto rigore si rischia di non arrivare a tirarlo? Sì, certo che lo sapevano, lo sapevano anche gli spagnoli che c'era il rischio che non arrivasse a tirarlo Fabregas, però i calci di rigore sono così, in genere tu prendi il primo e l'ultimo, i più bravi in genere vengono piazzati al primo e all'ultimo posto, perché il primo psicologicamente è molto difficile e l'ultimo non ne parliamo, anche perché spesso è quello decisivo. Anche in Italia, Spagna-Portogallo è stata seguitissima, tant'è vero che sommando Rai 1, Rai HD e Rai Sport 1, il totale di ieri sera è di 11.236.000 spettatori, per uno share del 48%, che è veramente altissimo per una partita non dell'Italia. Detto tutto questo, sentiamo che cosa ha dichiarato poco fa Prandelli ai microfoni Rai nell'intervista esclusiva dell'immediata vigilia. Sensazioni sono buone, I giocatori che hanno avuto qualche problema hanno dato la loro disponibilità, quindi mentalmente siamo pronti. Emozioni forti, perché ci giochiamo una semifinale contro una grande squadra, quindi ci sono tante aspettative. Io ho un contratto, abbiamo un rapporto bello, straordinario. Ho sempre comunque detto che un po' mi manca il campo. Quindi finiremo questo europeo, poi valuteremo. No, il sentimento bello è che abbiamo riportato la gente con entusiasmo a vedere la squadra azzurra e quindi questo per me è un dato significativo. Non pensa, scrive Stefano, che far giocare tutte e tre i recuperati in extremis più Cassano, che non ha più di un tempo nelle gambe, sia un rischio considerando anche la stanchezza? Sì, Stefano, lo penso, condivido in pieno quello che lei dice. E non sono certo che quella annunciata dai quotidiani stamane sia, visto che Prandelli non l'ha annunciata, sia la formazione che vedremo davvero stasera, perché in effetti qualche perplessità l'avrei. Poi magari sentiremo anche le vostre, come sempre, all'800 24 00 24. Prandelli sembra orientato a confermare la stessa squadra che ha non battuto, che ha pareggiato con l'Inghilterra, con un solo ritocco, in partenza almeno, cioè quello di Chiellini sulla corsia sinistra al posto di Balzaretti, considerato che appunto, per dar seguito a questo intervento dell'ascoltatore di nome Stefano, è considerato che Chiellini è un recuperato, non dico miracolato, ma quasi. Che Abate e De Rossi sì, hanno smaltito i loro acciacchi, ma che questi acciacchi potrebbero ripresentarsi, trattandosi soprattutto per De Rossi di nervo sciatico, e che l'autonomia di Cassano è andata incalando in questo europeo, visto che in una semifinale devi poter avere risorse alternative da fresche da poter inserire in qualsiasi momento, soprattutto se la partita va verso o arriva ai supplementari, mi sembra che il fattore di rischio di partenza sia discretamente alto. Che impressione mi ha fatto Jordi Alba, scrive Marione Scalia da Milano, più croce e più discese in una partita che Antonini tutta la carriera, vabbè, a parte il povero Antonini, ma sì, questo Jordi Alba, che era stato, non dico sulle sue, ma insomma era stato più tranquillino, come tutta la Spagna, d'altra parte, quasi soporifera, per i 90 minuti, poi invece si è scatenato nei supplementari ed è veramente un giocatore molto, ma molto interessante. Jordi Alba, che proprio stamane, mi informa Franco Piantanida da un'agenzia spagnola, proprio stamane il Barcellona ha comunicato ufficialmente di aver acquistato per 14 milioni di euro con 5 anni di contratto. Con le cifre che si vedono o si sentono in questo periodo, ho l'impressione che 14 milioni di euro sono una follia, fin lì siamo d'accordo, se ragioniamo in termini assoluti e di economia reale. Se ragioniamo in termini, ripeto, di follie calcistiche, 14 milioni per un giocatore come quello di 23 anni non mi sembrano una follia, non mi sembrano uno spreco, per una volta. Sentiamo qualche frammento prandelliano per se ricaviamo delle sensazioni più precise su chi gioca o su chi non gioca, ripeto, in attesa dei vostri interventi. Stefano da Udine scrive, per esempio: ma quindi sfuma l'idea di vederli Natale prima punta con Balotelli dietro di lui? Stefano, quel che si capisce sì, e poi invece magari quel che si è capito o quello che hanno capito gli inviati del Segretario d'Italia non è la verità, oppure ancora Prandelli cambia idea in giornata e si vedrà quella coppia, ma così la sensazione è che non andrà così. Davide ha chiamato da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Granzinin. Niente, vorrei dare il risultato di questa sera. Ah, ecco. No, io dico soltanto una cosa, ecco, io prevedo che questa sera noi ci sarà un risultato storico a nostro sfavore. Sfavore, con la S. S, esatto. Uh-huh. Ne prendiamo tre. Ne prendiamo tre perché vi spiego il perché. Non sì. Abbiamo attaccanti, uh-huh. Abbiamo quelli pochi che abbiamo si addormentano anche davanti alla porta, senza far nomi, e poi io lo dico anche il Balotelli, con queste occasioni diciamo che ha avuto, si è sempre addormentato. Ecco, io la vedo così, insomma, ecco, loro sono più forti. Bene, bene Davide, ma loro sono un po' più forti, loro lo sono. Non mi pare ci siano tre gol di scarto. Ci sono due giorni di riposo e di differenza, che ieri sera per esempio Non sono pesati, perché ieri sera i due giorni erano a sfavore della Spagna, e la Spagna li ha discretamente ammortizzati nel corso della partita, pur non avendo brillantezza, evidentemente. E qui no, stavo vedendo un messaggio, dice domani la richiamiamo, Davide, questo era un messaggio che era appena arrivato in tempo reale, richiamare questo veronese del 3-0. La Spagna non ha accusato, se non con una mancanza di brillantezza nei tempi regolamentari, ma invece poi, pur avendo i due giorni in meno di riposo, è uscita semmai alla distanza. Resta da vedere se è uscita alla distanza per la borraccetta magica, come scrive Franco Scanferlato da Castelfranco Veneto, o più probabilmente perché nel frattempo è calato il Portogallo, perché anche contro una Spagna poco brillante, e quella di ieri sera certamente lo era, però bisogna correre, perché mentre loro far correre la palla sei tu che devi correre per provare ad andargliela a riprendere, e quindi il Portogallo a un certo punto quel po' di usura l'ha sentita, soprattutto nei supplementari e soprattutto, secondo me, anche psicologicamente, dopo che Ronaldo ha fallito quell'occasione, non facilissima, ma insomma ampiamente alla sua portata al 90esimo, e dopo che aveva calciato tre punizioni nel secondo tempo, più o meno dalla stessa piastrella, più o meno, e la più bassa era andata a scheggiare, non so, gli occhiali, immagino, di spettatori delle file già abbastanza alte, e questo può non aver fatto benissimo alla squadra, no? Nel senso che può aver capito che la serata, che se non si era vinto nei 90 minuti era difficile che accadesse lì a dopo. Sempre by Franco Piantanida, ha fatto una ricerca dall'82 in poi di qual è l'incidenza dello sfasamento del riposo non riposo. Allora, dall'82 a oggi, in 43 partite a eliminazione diretta in cui c'era sfasamento dei giorni di riposo tra le due squadre, 23 volte ha vinto la squadra che aveva riposato di meno, quindi 23 su 43 vuol dire che finora non ha mai avuto incidenza, quindi può darsi che non ce l'abbia nemmeno stasera, che è quello che l'Italia si augura evidentemente. Romeo Piacenza, buongiorno. No, signor Garanzini, io volevo parlare anche della Spagna, volevo solo dire che secondo me la Spagna ieri sera aveva preso la partita un po' sotto gamba, pensando che una volta o l'altra poi il gol lo facevano. E per quanto riguarda l'Italia, io dico che per le partite sono sempre al 50-50, perché non si può mai sapere, il pallone è tondo. Però parlando di Balotelli, è un ragazzo che sicuramente ha dei numeri, che sia un fenomeno io devo ancora vederlo. E direi anche che non lo vuol dire nessuno che è un ragazzo che ha dei problemi sicuramente psicologici. Meno male che non lo vuol dire nessuno, Romeo, perché se invece qualcuno lo volesse dire, cosa faremo? Gireremo, avremo anche i manifesti che tappezzano i muri delle strade. Non è che ci sia tutta sta riservatezza sul conto di Balotelli, non è che qualcuno, e non è che non, insomma, siano mancate le diagnosi, no? Soprattutto quelle non richieste da quando è apparso alla ribalta. Stefano Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno a lei. Senta, io la chiamo per questa ragione, spero davvero che Prandelli non metta la stessa formazione iniziale che ha giocato l'ultima partita, perché essendo una semifinale loro sono, a parte sono molto forti e sono fisicamente molto preparati e hanno due giorni in più di noi, se ci riproponiamo con gli stessi giocatori anche con coloro che sono usciti abbastanza acciaccati rischiamo grossissimo, io riterrei in panchina per rilanciarli al limite nel secondo tempo, perché se dovesse succedere a De Rossi una ricaduta è grave. Questo sì. L'ascolto per radio, la ringrazio molto, arrivederla. Sì, ma infatti Stefano, qualche perplessità la suscita questa decisione. D'altra parte, insomma, Prandelli la responsabilità se la prende, evidentemente sia i giocatori che i medici, che i fisioterapisti gli hanno dato garanzie, i preparatori, e quindi se glieli danno tutti e buoni disponibili, un allenatore a quel punto ha solo una valutazione tecnica o tattica da fare, non deve più fare queste, da queste lo hanno sollevato. A meno che non siano più d'uno i giocatori in quelle condizioni di rischio. Se sono, e se come è nel caso di stasera, sono potenzialmente almeno due, e cioè Chiellini e De Rossi, se non tre, insomma, effettivamente allora la prudenza suggerirebbe, fermo restando una cosa, che c'è un giocatore di quei tre che non deve mancare e che non deve uscire, che è De Rossi. Ce n'è uno di cui, insomma, ricordando anche il gol con la Croazia, insomma, se c'è è meglio, se non c'è nessuno si straccia le vesti, che è Chiellini. Se varrebbe il discorso per Abate, se però Maggio fosse disponibile, invece Maggio è squalificato, e quindi se non c'è Abate sulla destra, non c'è un esterno di vocazione, di ruolo, e quindi anche la sua assenza o la sua ricaduta sarebbe abbastanza grave. Il resto sono scelte tecniche, tattiche, Cassano piuttosto che Di Natale, piuttosto che Diamanti, piuttosto che Giovinco, le carte da giocare sono tante, poi di Maradona fuori non ne restano e non sono disponibili, e bisogna quindi provare a pescare la soluzione giusta, sia iniziale sia quella che poi la partita ti suggerisce. Non sempre è accaduto, secondo me, in questo europeo. Augusto, provincia di Terni, buongiorno. Buongiorno, Pieranzini. Dica. Dunque, non è vero che siamo tutti allenatori quando siamo davanti alla televisione, ma questo di te, cuore, che uno ha, e quindi si medesima nelle situazioni. Però nella prima di questa sera della formazione, io non so se ho visto un'altra partita qualche giorno fa, ma mi è sembrato che l'Italia andasse molto bene solo ed esclusivamente per i meriti, parlo di costruzione del gioco, di De Rossi e soprattutto Pirlo, perché qualunque giocatore aveva la palla in mano l'appoggiava sistematicamente a loro due, e la maggior parte poi dei riferimenti erano sempre su Pirlo. A un certo momento ci si addormentava, ho visto un Montolivo che ha sbagliato moltissimi passaggi, la cosa è cambiata completamente quando sono entrati in campo Diamanti e Nocerino. Agguerriti, corrono, tirano, arrivano in area, insomma hanno dato una smossa a quello che era un gioco piatto, sempre fermo a centrocampo. Ora forse, ripeto, forse ho visto un'altra partita, ma non capisco questo insistere su persone che finora non hanno dato grandi risultati, parlo di Montolivo per la mia osservazione, e non sfruttare due agguerriti che, come hanno messo il piede in campo, hanno dimostrato proprio di aver voglia di fare. In ultima analisi dico anche che Bonucci secondo me non è da nazionale, ma si potrebbero dare altri giocatori che sono lì. Ora, se ha una necessità è un altro discorso, però non mi è sembrato a livello degli altri giocatori, come un Barzagli da nazionale, intendo dire. Grazie Augusto. Sul sito della Bild scrivono: tra gli azzurri solo Buffon e Pirlo starebbero bene nella nostra nazionale. Beh, insomma, c'è qualcun altro che stasera potrebbe magari convincerli del contrario. Io poi non sinceramente non ho commentato l'intervento di prima, perché tanto sono storie vecchie, sono passati 4 giorni e non macina più nulla, conta come giochi stasera, ma insomma, dire che abbiamo giocato solo Pirlo e Balotelli e che tutto sia cambiato con l'ingresso di Diamanti e Nocerino mi sembra un po' riduttivo per chi invece ha giocato prima bene, come ha giocato Montolivo, come ha giocato Marchisio, come ha giocato tutti. L'altra sera contro l'Inghilterra, semmai chi non ha giocato bene, chi è mancato sono gli attaccanti, perché se tu crei tutte quelle occasioni e non ne trasformi nemmeno una, quello mi sembra che sia un problema serio. Poi che Nocerino abbia portato una grande freschezza non c'è dubbio, che un po' di freschezza l'abbia portata anche Diamanti non c'è dubbio nemmeno su questo. Bisogna vedere, Prandelli deve fare delle valutazioni che i commissari tecnici da salotto, e mi ci metto anch'io, sia ben chiaro, non solo il signore di Terni di prima, non teniamo particolarmente presente, e cioè il rapporto con l'avversario, il rapporto con la qualità dell'avversario. Stasera stiamo parlando, mentre l'avversario di domenica era modesto, l'avversario di stasera ha qualità, e in qualche caso ha grande qualità, e allora proporre in partenza giocatori di qualità superiore e magari di condizione non brillante può essere un modo per reggere il gioco perlomeno fino ad un certo punto. Il problema è quanti di questi reggono e per quanto tempo. e sono per l'appunto le alchimie che un allenatore deve tenere ben presenti, a differenza dei CT da divano. Sentirei questo intervento di Michel Platini su Radio 2 ieri, da Piero Chiambretti, questa analisi divertita sull'Italia. Champagne. Perché Pandevi ha cambiato il gioco, è una squadra che gioca molto bene da dietro, che gioca per giocare, che si punta avanti e che ha dei giocatori buonissimi, molto buoni. 25 anni fa Prandelli è stato molto bravo sempre nel parlare di calcio e di vedere le cose. No, fortunato no, ha giocato molto bene contro l'Inghilterra, ha vinto, ha meritato di vincere questa partita. Dopo il rigore bisogna avere un po' di fortuna, dunque per il momento c'è la competenza e la fortuna per andare avanti, questo è importante. È importante sì, c'è una cosa ancora più importante che è che duri questa fortuna, e oltre che questa competenza. Prandelli, ricordo, è stato per tre stagioni almeno, forse quattro, compagno di squadra di Platini nella Juventus, anche se insomma la gerarchia diceva che Platini era l'astro di quella squadra e Prandelli era un buon rincalzo, un buon jolly di centrocampo. Luca, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno Gigi, sicuramente complimenti, volevo spezzare una lancia in favore di Bonucci come difensore. All'inizio della stagione la Juventus era messa un po' in discussione, Conte poi l'ha comunque rivalutato mettendolo vicino a Barzagli e molto spesso affidandogli, visto che ha i piedi buoni, anche i lanci, infatti ha fatto diversi assist anche per dei gol. Dopodiché, ultima cosa, mi piacerebbe vedere Borini davanti a Balotelli, visto che non ha ancora giocato, una prima punta di potenza che può sfruttare anche i cross. Grazie, l'ascolto da tanto. Una prima punta di potenza, ma è stesso con partenza esterna, però di preferenza, e soprattutto un debutto alla quinta giornata, un debutto dal primo minuto alla quinta giornata di un torneo, in una semifinale contro la Germania. Io invece non lo auguro a un giovane attaccante, perché sarebbe una situazione difficile per lui. Mi ha colpito, insomma, pensi solo a Negredo ieri sera con la Spagna. Gioca in una squadra, entra in una squadra più collaudata rispetto all'Italia, perché su questo direi che non ci sono dubbi. Ha già esperienze di nazionale, perché qualche partita con la nazionale spagnola già l'aveva giocata, sia pure non di quelle di primissimo livello, ma insomma amichevole ne ha disputate. È entrato, si è trovato a cercare di capire, cioè, ma ci ha messo mezz'ora più o meno a trovare la posizione, a capire come doveva muoversi. Ha avuto la sfortuna di beccare una serata brutta della Spagna, tant'è vero che il professor Xavi ieri sera non è mai riuscito a impugnare la bacchetta da direttore, quindi questo già la dice lunga su come può aver giocato la Spagna ieri sera. Insomma, morale, Negredo non ha beccata mai e all'inizio del secondo tempo, arrivederci, grazie. Io non credo che sia questo il momento in cui far entrare i giocatori nuovi di zecca e giovani soprattutto. Walter, provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno. Sono un nuovo ascoltatore, ho scoperto Radio 24 da poco e vi faccio i miei più grandi complimenti. Bene. Io farei la stessa nazionale dell'ultima partita, con una sola eccezione, di fare al posto dei Balotelli. I convalescenti entrerebbero se ce ne fosse bisogno. L'ultima partita secondo me è stata bella, che ha giocato la nazionale negli ultimi 5-6 anni. Grazie mille. Grazie a lei, ma grazie anche all'Inghilterra, però, Walter, perché l'Italia ha giocato veramente una signora partita, che però il cui valore, però, il cui spessore è sempre in rapporto a quello che gli avversari rappresentano e ti concedono. L'Inghilterra dell'altro giorno è stato l'avversario ideale, secondo me, perché si chiama Inghilterra, e già Inghilterra, già pronunciarla, no, ti riempie la bocca e non ti fa dormire, diceva Enzo Bearzot. Mi ricordo questa sua frase, che ripeteva spesso quando parlava di avversari come l'Inghilterra, ma in particolare dell'Inghilterra. Non ti fa dormire, nel senso che ti dà il massimo, lui intendeva dire che ti dà il massimo dello stimolo, il massimo della concentrazione, e poi in campo te la ritrovi così poca cosa, credo sia davvero l'avversario ideale. Walter, l'abbiamo sentito. Daniele da Roma, buongiorno. Ciao Gigi, buongiorno. Senta, due cose. La prima, io credo che stasera si può vincere con palla a terra e attaccando per 60-70 minuti. Io credo che la difesa dei Crucchi non è niente di che. La seconda cosa invece è la Spagna, con un centrocampo così non far giocare Torres secondo me è un suicidio. Grazie, l'ascolto per radio. Secondo me non la vediamo alla stessa maniera, secondo me è legittima difesa quando già hai la squadra che non è in grande condizione, ripeto, a cominciare da un professore come Xavi, almeno ti risparmi Torres, è già qualcosa. Nel 2005 il Barcellona, mi informa Franco dalla redazione, lasciò libero Jordi Alba. Ah, ecco, congratulazioni. Dopo averlo avuto per 7 anni nelle giovanili. Ah, complimenti al Barça del 2005. 7 anni dopo lo ricompra a 12-14 milioni, insomma, a 14 milioni di euro a seconda delle versioni. È un caso Giovinco Juventus, questo direi anche più grave. Perché non è che alla Juve Giovinco stia costando poco, riportarlo all'ovile, ma in questo caso mi pare che Jordi Alba costi ancora di più, e soprattutto l'esilio è durato anche più a lungo. Daniele, Roma, buongiorno. Daniele, qualche problema? Salvo, da Palermo, buongiorno. Sì, buonasera. Io le volevo sapere cosa le pensava sul fatto che sono un tifoso del Palermo, quindi potrei essere un po' di parte, però volevo sapere che le pensava sul fatto che un allenatore preparato come possa prendere in considerazione il fatto di fare giocare Chiellini, tra l'altro fuori ruolo e che rientra da un infortunio abbastanza serio, al posto di Balzaretti, che secondo me con l'Inghilterra è stato uno dei migliori in campo. Grazie. Ritorna una citazione di quelle preferite di Enzo Bearzot. L'Italia del calcio è rimasta al tempo delle signorie, e quindi da Palermo la valutazione sulla scelta Chiellini-Balzaretti non è quella che viene fatta per esempio da Torino. Abbiamo avuto nei giorni scorsi esempi in tal senso da Diamanti, no? No, non toccate Diamanti a Bologna dintorni. E sono le signorie, che non c'è nulla di male in questo, intendiamoci. Enzo lo diceva con sorriso sulle labbra, a meno che non trovasse allo stadio poi i cartelli di protesta perché giocando in una tal città aveva lasciato fuori il tal giocatore o in quell'altra, in tal altro, insomma. Ma fa parte del folklore locale. Detto che Balzaretti ha giocato una buona partita contro l'Inghilterra, soprattutto nel primo tempo, ma detto e valutato anche che la Germania, soprattutto da quella parte, propone qualche rischio in più, e quindi nella fase, cioè, l'idea di cautelarsi sempre che Chiellini sia sicuro di poter reggere 90 minuti eccetera eccetera, direi di proteggersi difensivamente un po' di più da parte, non mi sembra proprio così campata in aria. La Germania è cresciuta, sostiene Prandelli, sentiamo il dettaglio. Secondo me no, perché i dati sono significativi, perché la crescita di questa squadra è costante, perché negli ultimi anni è migliorata da tanti punti di vista. A questa sicurezza troveremo una squadra convinta, una squadra che, anche se dovessimo farle paura, non avranno nessun tipo di remore, ma cercheranno di ribaltare azioni su azioni, e quindi sarà secondo me una partita affascinante. Questo è non solo possibile, ma direi anche probabile, in effetti. Mauro Ancona, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che la squadra migliore che ho visto, la formazione migliore che ho visto è stata quella contro l'Inghilterra, e secondo me dovrebbe essere la formazione che andrebbe rimessa in campo, compreso Balzaretti e Dante. Purtroppo io sono un po' Cassano, ma Cassano non arriva a 40 minuti, e magari parlerà successivamente, però ecco, comunque la formazione è quella, tenendo in campo sia Montolivo che Pirlo. Poi, visto che l'attenzione su Pirlo sarà esperienza, poi magari scambiare di ruolo, come faceva già Ancelotti con Pirlo quando era a Milan, ecco. Quando andavano a marcarlo fino in fondo. Va bene. Va bene, grazie Mauro. Andiamo a Perugia da Andrea, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo solo dire che comunque vada sarà un successo, perché non ci scordiamo che veniamo da un mondiale 2010 come è andato e Prandelli ha fatto un grandissimo lavoro di riavvicinamento della gente alla nazionale, quindi siamo già fra le prime quattro d'Europa. Un grande applauso ai ragazzi di quel che hanno fatto, perché fino alla settimana, due settimane fa avevamo preso tre gol dalla Russia e è stata l'unica nazionale che ha fatto solo, se non sbaglio, sette giorni di pre-ritiro, quindi siamo già anche troppo le rose aspettative, quindi un in bocca al lupo alla nazionale, grazie. Grazie a lei Andrea, parole sagge, perché in effetti ogni tanto ripassare, no? Ripassare se non altro i tempi recenti, i tempi che hanno preceduto questa avventura e quindi valutare quello che sta accadendo anche in questa ottica è sempre un esercizio abbastanza saggio. Che facciamo? Sentiamo Nicola Filippone e il suo 28 di giugno. Sembra ieri. 28 giugno 2000. A Bruxelles, Francia e Portogallo si giocano l'accesso alla finale in una sfida equilibrata. La differenza la fa, manco a dirlo, uno Zinedine Zidane a tratti incontenibile. In realtà la formazione allenata da Roger Lemaire passa prima in svantaggio, colpita dal giovane centravanti Nuno Gomes, ma nella ripresa trova il pareggio con Henry. La partita sembra ormai avviata ai calci di rigore, quando al 117esimo l'arbitro fischia un tiro dagli 11 metri per un fallo di mano di Abel Xavier su tiro di Wiltord. Dal dischetto Zidane non sbaglia. Per la seconda volta dopo la finale vinta dalla Germania sulla Repubblica Ceca nel 96, una partita degli europei si risolve con un golden goal. Succederà di nuovo a favore della Francia, nella finale di quella edizione contro l'Italia di Zoff. Gabriele da Bologna scrive: Prandelli ha ravvicinato la gente alla nazionale perché è prima di tutto una brava persona. Ma questo è oggettivamente vero. E quindi sì, io poi dubito che una brava persona che non fa risultati avrebbe avvicinato la nazionale, ma insomma in questi casi qua quel minimo di... Anzi, in giornate come queste c'è persino troppa poca retorica, mi sembra, per il momento, non, nel senso che siamo abituati a ondate anche più alte di questo ingrediente di cui sembra che non ne facciamo, non sappiamo fare a meno. Alessandro, provincia di Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Dunque, devo dire due piccole cose. Ho sentito prima che si parlava di Montolivo come se avesse giocato una brutta partita. Io non sono assolutamente d'accordo. Nemmeno io. Molto bene, considerando anche che aveva giocato un piccolo spezzone e basta. Insomma, per lui era praticamente la prima partita. E la seconda cosa è che io sono uno dei pochi italiani a cui Balotelli è piaciuto. Lo so che non realizza. Ho controllato, fa 0-3 gol a partita di media per un centravanti in carriera, effettivamente pochi, però fa molto, cioè vedo che tiene molto impegnata la difesa. Da questo punto di vista lo vedo un piccolo Ibrahimovic. Se avessimo Inzaghi, faccio per fare un esempio, avremmo un grande stoccatore, però probabilmente leggeremmo pochissimi palloni. Quindi io mi tengo Balotelli, sperando magari se gli capitano 5 palle stasera perlomeno una la metta dentro. La ringrazio, buonasera. È quello che Prandelli spera, è quello che gli chiede sin dall'inizio. Insomma, l'investimento l'ha fatto non solo per le qualità potenziali del giocatore, ma visto che questa non è una rassegna giovanile, anche per le qualità reali che il giocatore è in grado di esprimere e che Prandelli probabilmente sperava sarebbe riuscito Balotelli a mostrare in maggior quantità e che invece sino ad ora sono rimaste un pochino inespresse. Che poi Balotelli sia andato un po' in crescendo in questo mondiale, soprattutto dal punto di vista dell'impegno, ma più ancora della continuità, beh, questo è un dato oggettivo. Malauguratamente, quando uno gioca in quel ruolo, viene misurato in rapporto a quanto realmente produce sotto rete, e fin qui è stato poco in rapporto alla squadra che invece ha prodotto tanto, ha costruito tanto e lo ha messo lui e altri, ma lui in particolare nelle condizioni, soprattutto con l'Inghilterra, di avercele queste benedette palle gole che invece sono state fallite. Marco Ferrara, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Io volevo farle due domande, se è possibile. Volevo chiederle intanto se lei pensa che la Inghilterra vista contro di noi è migliore o peggiore della Spagna ieri sera vista contro il Portogallo. E poi la seconda domanda, poi libero la linea, era semplicemente se lei pensa che l'Italia potrebbe giocare con il 4-3-1-2, ovvero mettere un trequartista, nel mio pensiero Giovinco, dietro a Balotelli e Di Natale. Dunque, sull'Inghilterra sì, direi abbastanza nettamente peggiore anche rispetto alla Spagna di ieri sera, perché l'Inghilterra è comunque una squadra sfilacciata che vive di qualche sussulto ogni tanto, ma che in realtà altro non sa fare in questo suo ciclo degli ultimi tempi, altro non sa fare che difendersi, in realtà non riesce a fare che quello, con qualche rara sortita. Quindi, dato che la domanda era, se non ho capito male, se è più difficile affrontare una squadra come la Spagna di ieri o come l'Inghilterra di domenica, rimane nettamente più difficile la Spagna, che è un gioco che, anche se non riesce in maniera brillante come ieri, ma ti sfianca. E anche il Portogallo ieri sera ne è risultato a gioco lungo sfiancato. Il 4-3-1-2 potrebbe essere certamente una soluzione coraggiosa. Vorrebbe dire replicare il modulo dei tedeschi, grosso modo, perché i tedeschi giocano più o meno così, nel senso che Özil non è un centrocampista vero, è quell'uno che sta dietro le due punte. Le due punte però sono una centrale e una a turno, una delle due ali. Può essere Müller o può essere Podolski, a seconda delle fasi di gioco, delle fasi della partita. L'Italia potrebbe replicare quel modulo, ma certamente questo significherebbe essere un tantino più scoperti di quanto non sia accaduto, per esempio, contro l'Inghilterra. Chiellini dice di star bene, sentirei questo frammento. Bene, sono contento, insomma, di quando mi sono ripreso. Ha fatto bene in questi giorni, la squadra, quindi a disposizione del mese. C'è grande voglia, grande disponibilità e sicuramente mi metto a disposizione perché penso di star bene. Certo, mica facile ascoltare la voce di Chiellini, perché più c'è frastuolo in giorno in giro, più lui abbassa il tono di voce con un effetto non formidabile dal punto di vista dell'ascolto. Daniele, Roma, buongiorno. Buongiorno Gigi, senta due cose. La prima è questa: secondo me possiamo battere tranquillamente i crucchi stasera giocando palla a terra contro una difesa che è assolutamente perforabile. Per quanto riguarda la seconda cosa, con un centrocampo così la Spagna non so come non faccia a giocare con Torres al primo minuto, onestamente. Grazie, buongiorno. Ma io queste qua le ho già sentite prima, quindi c'è un gemello o c'è un altro ascoltatore che la pensa esattamente come Daniele da Roma. Torres il contrario, e cioè ci manca solo Torres in una Spagna così incalando. E poi trovo fastidiosissima l'espressione crucchi, se posso dire, perché ma proprio molto molto fastidiosa, e quindi io direi che sono i tedeschi, sono la nazionale germanica, se vuole, sono gli avversari di stasera, se non li vuol nominare, ma crucchi lo lascerei ad altri programmi più illuminati di questo, per cortesia. De Rossi come starà? E soprattutto, che cosa trova di simile rispetto al 2006? Sentiamo. Queste partite nessuno le vuole saltare, soprattutto se è un'Italia-Germania che vale la finale di un europeo. Per quanto riguarda quella lì, è un'altra partita, un'altra, anche se non è che sono passati 30 anni, ma è un'altra epoca, un'altra generazione. Siamo rimasti in pochi, io tra l'altro neanche giocavo. Una serata epica, perché giocavamo da loro e perché era tutto faceva pensare a un loro trionfo, invece così non è stato. Vedo delle similitudini, perché qui si pensa che loro sono grandi favoriti, in parte è vero, ma non vedo un'Italia che parte battuta, quindi potrebbe diventare un'altra serata storica anche questa. Prevedo Balotelli determinante stasera, scrive Luigi, con un paio di gol. Voilà, un paio. Credo che l'esultanza post rigore con gli inglesi gli abbia fatto superare i blocchi psicologici d'infanzia. Luigi, adesso esagero malenghi, gli ha fatto superare magari il blocco che c'è stato in questo europeo, ma non andrei poi troppo indietro per un'esultanza in più o in meno. Era l'ascoltatore di prima, stessa voce, stesse parole, scrive Franz. Ma avete registrato le telefonate? Domanda un altro ascoltatore. No, che sappia io, no, di sicuro. Velocemente, Iuri, provincia di Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica, Iuri. Salve, chiedevo se lei per caso può essere d'accordo con me sul fatto che l'Italia, la miglior partita che ha fatto a quest'oggi, non è l'ultima con l'Inghilterra, ma secondo me è proprio quella, la prima con la Spagna. Ma non c'è dubbio. E quindi io giocherei proprio con quel tipo di formazione contro la Germania, perché secondo me la Germania sarà molto più simile alla Spagna piuttosto che all'Inghilterra, soprattutto come quantità e qualità di gioco. Sono d'accordo con lei, Iuri, perfetta analisi. La migliore Italia comunque è stata quella con la Spagna, non certamente quella contro la povera Inghilterra. Matteo Comes in regia, Franco Piattaride in redazione, buon pomeriggio.